sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 gennaio, il sole in regione sorto alle 7.49 tramonterà alle 16.42. Mercoledì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Il Friuli Venezia Giulia non riesce a produrre più del 20% della verdura che consuma, pur avendo ottime zone vocate per queste produzioni. Cosa succede? Cosa manca? Affrontiamo il tema nel servizio di apertura. A seguire, per la rubrica del bio, l'utilizzo dell'ortica nell'alimentazione zootecnica per la sua ricchezza di proteina. Il ruolo e l'importanza degli zuccheri nell'uva è trattato invece nella rubrica della vite e del vino, mentre in quella dell'orto i consigli per i lavori da fare in questo mese che non è certo periodo di pura inattività. Con la seconda puntata dedicata alla pitina, quel prodotto tipico della nostra regione, ci addentriamo nei suoi utilizzi in cucina, mentre per lo spazio della gastronomia in scena la panade, la zuppa di pane, piatto povero ma con tanta ricchezza di gusto e tradizioni. Come di consueto avremo in chiusura l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Un dato su tutto, in Friuli Venezia Giulia non si riesce a produrre più del 20% della verdura che consumiamo. Una situazione che vede però anche delle zone vocate a queste coltivazioni. Il perché lo chiediamo a Costantino Cattivello, tecnico dell'ERSA che ha sempre seguito questo comparto. Le cause sono molteplici, certamente una scarsa imprenditorialità e la ritrosia nel fare gruppo. In questa situazione dove il lavoro non è certo abbondante e dove si potrebbero trovare delle ottime soluzioni anche da un punto di vista economico, cosa dovremmo fare per rilanciare, anzi per lanciare questo settore? Potremmo sfruttare quelle produzioni di nicchia particolari che ci differenziano dal resto delle produzioni orticole italiane. Ne abbiamo anche noi, ma le apprezziamo solo noi. Penso ad esempio al sedano rappa, penso al radicchio da grumolo forzato, alle cipolle, all'aglio particolare, alla fava, potrei citarne tantissimi altri. Quello che è importante è fare massa, darsi dei regolamenti, quindi avere un prodotto omogeneo, costante, con determinate caratteristiche, quindi diciamo avere quelle precondizioni che ci permettono poi di accedere ai grandi mercati, fare i volumi e quindi dare opportunità di reddito a molte aziende. È una questione di volumi oppure una questione di qualità? Anche se negli ultimi anni, soprattutto nel settore del biologico, qualcosa si muove. Sì, il settore biologico è uno degli aspetti più interessanti, diciamo che conferma una vitalità dell'ambito orticolo. In 8 anni fondamentalmente le aziende orticole sono raddoppiate. Questo chiaramente fa capire come rispondano alla una necessità di naturalità delle produzioni che viene dal mercato. Abbiamo mica problemi sui canali di vendita? Ecco, anche i canali di vendita negli ultimi 8-10 anni sono cambiati profondamente. Fondamentalmente possiamo dire, mentre la percentuale di aziende che conferiscono al mercato ortofrutticolo sono fondamentalmente le stesse, quello che è cambiato molto è la percentuale di aziende che fanno vendita diretta. Un terzo delle aziende orticole vende solo attraverso questo canale e attraverso questo canale comunque si rivolgono l'80% delle aziende che vendono anche attraverso altri canali. È crollata la partecipazione e il conferimento a cooperative, mentre si stanno sviluppando altri canali di vendita, diciamo più moderni, che possono essere rappresentati ad esempio dalla vendita online oppure dalla vendita alla ristorazione o al piccolo dettaglio. La superficie totale, anche qui tutto sommato limitata, ma si parla circa di 1100 ettari, dove tre colture fanno la parte del leone, sono il radicchio con oltre 210 ettari, asparago, superficie paragonabile e patata. Complessivamente di che numeri parliamo per quanto riguarda l'orticoltura di occupati? Parliamo di circa 1440 occupati, per il 60% fondamentalmente familiari e un 35% di lavoratori a tempo determinato, per una PLV orticola stimata attorno ai 60 milioni di euro. Quali secondo lei le potenzialità che si potrebbero raggiungere? tantissime, soprattutto per produzioni da farsi anche in pieno campo. Non possiamo competere chiaramente con le regioni che hanno un clima migliore delle nostre e infrastrutture che si sono sviluppate nel corso del tempo, per cui è inutile puntare a grandi produzioni precoci o produzioni tardive. Se noi ci limitassimo a fare delle produzioni di qualità ben caratterizzate e differente dalla massa presente sul mercato italiano, potremmo fare direttamente in pieno campo, usando tecniche evolute che ci permettono di avere un prodotto, tra virgolette, pulito, di elevato valore nutraceutico e con volumi che ci permettono finalmente di uscire dal nostro ristretto guscio regionale. L'agricoltura biologica, ma non solo quella, rivaluta l'ortica come ottimo foraggio, soprattutto per la sua ricchezza di proteine. Ce ne parla Cristina Micheloni. Nel 2022 l'alimentazione degli animali allevati nei sistemi biologici dovrà basarsi al 100% su materie prime provenienti da agricoltura biologica. Attualmente, infatti, c'è un 5% di possibilità di utilizzo di materie prime convenzionali, purché non OGM e non trattate con prodotti non ammessi. Quindi, tanto per fare un esempio, la farina di soia, che è estratta con solventi, è già vietata. Con tale 5%, di solito si apportano proteine, che sono la parte un po' più complessa e più cara economicamente della razione dei monogastrici, polli e suini. Ma l'interesse per fonti alternative di proteine per l'alimentazione animale è espresso anche dalla zootecnia convenzionale, che sempre di più deve fare i conti con la necessità di divenire un po' più circolare, gravare meno su terre lontane, spesso di recente deforestazione, e sistemi colturali ormai indifendibili, nonché guardare di più ai sottoprodotti, a fonti locali, e che meno necessitano di fertilizzanti e interventi costosi in termini di energia, di chimica, di euro, nonché di impatto su clima e ambiente. Nello spazio di creatività che si è quindi aperto, c'è chi si è rimesso a coltivare il lupino, chi ha rivalutato il pisello, e chi si è accordato con un pastificio per utilizzarne i sottoprodotti, e chi si è messo i guanti e ha provato a lavorare sull'ortica. Esperienza di un allevatore francese, corroborato dalla validazione scientifica dell'ITAB e altri istituti di ricerca. Ed ecco che risulta interessante coltivare le ortiche, soprattutto laddove crescerebbero già da sole, ovviamente in bio. Considerando il vantaggio di una coltura perenne, che dopo le prime fasi di messa a dimora, il primo e secondo anno, e di stabilizzazione, ha bisogno di poco, e lo sfalcio può essere utilizzato da affienato o da essiccato, e quindi tale prodotto risultante dall'ortica può essere distribuito come foraggio o diventare parte del mangime stesso. Le analisi hanno confermato che, a seconda del momento dello sfalcio, l'ortica contiene dal 15 al 30% di proteina. Quindi, meglio se sfalciarlo un po' in anticipo, in modo da privilegiare proprio la proteina sulla fibra. E tale proteina contiene una buona dose degli aminoacidi più difficili da fornire agli animali, oltre che una fibra di buona qualità. Le prove di alimentazione sono state svolte su suinetti sotto i 15 kg, quindi in piena crescita, nel momento quindi in cui hanno maggiore necessità di proteina di buona qualità, e anche su animali adulti. In entrambi i casi gli animali hanno dimostrato di gradire il nuovo alimento, che probabilmente i loro progenitori, liberi di vagare nei boschi, già avevano assaggiato. Analoga prova è stata svolta sui polli da carne, anche in questo caso con buona accettazione da parte degli animali e interesse dell'allevatore, che può risparmiare sul mangime. Tanto per dare alcuni dati, si considera che sul costo di produzione dei suini il 70% è dovuto all'alimentazione. Altra cosa interessante è poter utilizzare i propri terreni per una coltura diversa e a basse esigenze di input. In attesa di conoscere l'effetto sulla qualità delle carni, date un'occhiata al video che vi ho postato sulla pagina Facebook della trasmissione. Per la rubrica della vita e del vino, oggi il professor Zironi ci conduce in un viaggio tra gli zuccheri contenuti negli acini dell'uva. Se noi analizziamo l'acino d'uva maturazione, possiamo distinguere nella buccia dell'acino un epidermide, che è costituita da una sorta di cellule piatte, fortemente saldate tra di loro, con pareti inspessite ed esternamente ricoperte da cuticola e da cere. Sotto l'epidermide abbiamo una zona costituita da 11-12 strati di cellule, con pareti inspessite, fortemente saldate tra di loro. La polpa è invece costituita da 25-30 strati di cellule a parete sottile e di dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quelle della buccia. Attraverso il peduncolo, i fasci conduttori della linfa entrano nella bacca stessa e irrorano il frutto di tutta una serie di costituenti originati dalla pianta. Tra questi costituenti maggiormente rappresentati sono gli zuccheri. Gli zuccheri, detti anche carboidrati, sono molto importanti per la pianta e sono il risultato della fotosintesi, processo con il quale l'anidride carbonica è trasformata in composti chimici necessari per il metabolismo del vegetale. La fotosintesi si attiva negli organi verdi della pianta e quindi è dalle foglie che questi elaborati vengono poi trasferiti negli altri tessuti della pianta stessa. I zuccheri migrano nel frutto sotto forma del disaccaride saccarosio, il comune zucchero da cucina. Giunto nell'acino, il saccarosio è idrolizzato nei due zuccheri costituenti, il glucosio e il fruttosio. Nel giovane acino, dove c'è una tensa attività metabolica, il fruttosio è utilizzato e quindi troveremo un accumulo di glucosio. Nel frutto a maturazione, quando questa attività metabolica è notevolmente rallentata, il rapporto tra glucosio e fruttosio sarà pari a 1. Considerando che il fruttosio ha un maggior potere dolcificante rispetto al glucosio, si avrà nell'uva matura un effetto di dolcezza caratteristico dovuto proprio alla presenza del fruttosio. Nell'uva matura la concentrazione di glucosio e fruttosio è compresa tra i 150 e i 250 grammi litro. Inoltre è presente ancora come traccia lo zucchero di trasporto, il saccarosio. Se l'uva è sottoposta a surmaturazione, il rapporto tra glucosio e fruttosio cambia ancora, diventa predominante il fruttosio e quindi in questi succhi avremo un notevole effetto dolcificante che l'enologo può sfruttare nella produzione, ad esempio, dei vini dolci naturali. Oltre a questi zuccheri, troviamo anche degli altri monosaccaridi non fermentescibili e che daranno praticamente una impronta non decisiva alle caratteristiche del vino, ma che l'enologo dovrà prendere in considerazione in tutti i fattori che riguardano la stabilità microbiologica del vino stesso. Tutti sono convinti che nel mese di gennaio non ci sia nulla da fare in orto e sbagliano, come spiega Sara Bosco. Nel mese di gennaio in orto non ci sono molte attività, perché nel nostro clima diventa pericoloso piantare nuove colture in pieno campo, a causa delle possibili gelate. Le colture che si trovano ancora nel nostro orto vanno coperte con tessuto non tessuto, in modo che non vengano danneggiate dalle basse temperature e possano giungere fino alla fase di raccolta. Possiamo infatti trovare ancora spinaci, porro, le varietà più tardive di cavoli e finocchi. Questa operazione vale anche per le coltivazioni in balcone. Se invece si ha a disposizione un tunnel o serra fredda, è possibile coltivare lattughe, valeriana, radicchi, cicoria, bieta, che continuano a crescere seppur lentamente. Questo periodo invernale inoltre è ottimo per progettare le coltivazioni della prossima annata, in modo da poter preparare il terreno tempestivamente. Risulta infatti opportuno effettuare le lavorazioni di preparazione del terreno e di interramento di letame o compost. Ciò permette al terreno di essere pronto in termini di composizione e di tessitura. È importante però che il terreno, quando sottoposto a queste operazioni, sia in tempera. Questo termine indica un terreno che è idoneo, in quanto non è difficile da lavorare, le zolle si scretolano con facilità e si ottiene una superficie con una buona sofficità. Questo accorgimento va considerato per non compiere un'eccessiva fatica, forzare in modo smisurato gli attrezzi e non ottenere un buon risultato. Perciò, se il terreno è ancora tanto bagnato o ghiacciato, è meglio attendere. Un'altra attività da poter eseguire in questo periodo è anche la manutenzione di tutti gli attrezzi e contenitori che serviranno nell'arco della stagione e l'approvvigionamento delle sementi che si intenderà impiegare nel mese successivo che, seppur ancora freddo, con alcune accortezze permette di iniziare la stagione con alcune semine e alcuni trapianti. Questo mese perciò ci aiuta ad essere pronti e attrezzati per il nuovo anno. Seconda puntata oggi per la pitina, prodotto tipico delle valli pordenonesi che Adriano Del Fabbro ci illustra nei suoi molteplici utilizzi in cucina. Per confezionare la pitina, una volta macellato l'animale, disossato, sgrassato e privato dei tendini, si lascia frollare la carne per un giorno. Poi la si taglia a piccoli pezzi, la si tritura, la si sale, la si concia con le erbe aromatiche, il pepe, il sale, l'aglio e il vino rosso. Il colore esterno varia in funzione al periodo di stagionatura, da un colorito quasi dorato quando è fresca a uno bruno quasi nero quando è molto stagionata. Originariamente la pitina era composta esclusivamente da carni ovine o caprine o di selvaggina ungulata. Oggi i gusti sono cambiati e inoltre la carne di selvaggina non è facilmente reperibile. Alla ricetta originale perciò vengono addizionate piccole quantità di carne di maiale, previste dal disciplinare. Al taglio la pitina si presenta come un impasto magro, con la grana del trito molto fine. Pure in questo caso il colore delle carni varia in funzione della stagionatura. L'umidità è inferiore al 55%, il contenuto di sale non deve superare il 3,5% e le proteine sono inferiori al 28%. Tradizionalmente, quando si presentava il momento di gustarla, prima bisognava spazzolare le muffe che si erano formate sulla superficie. Poi la pitina veniva lavata con acqua e aceto e solo dopo averla asciugata con un canovaccio si tagliava a fettine sottili. La pitina ha decisamente un sapore forte, complesso, molto saziante. Va consumata tagliata a fettine, cruda, nel brodo di polenta, saltata in padella con il burro, oppure scottata sulla piastra o alla brace con aggiunta di qualche goccia di aceto e accompagnata da abbondante polenta calda. Nei ristoranti pordenonesi propongono pure il risotto con la pitina, gli gnocchi di patate, il minestrone, gli spaghetti alla carbonara con la pitina. Qualcuno osa tagliarla a fette e distribuirla sulla pizza. La ricetta più antica è quella che prevede la sua cottura nel latte di vacca o nella panna di latte, al cao. A dei piatti così autenticamente ruvidi può essere abbinato un buon bicchiere di vino rosso degli antichi vitigni autoctoni delle colline spilliberghesi, come il Forgiarin o del Refosco dal peduncolo rosso. L'organismo ufficiale di controllo della pitina IGP è stato individuato nell'IFCQ di San Daniele del Friuli. Dietro la panade, la zuppa di pane, uno dei piatti più umili, si nasconde una ricchezza di tradizione, ma anche di cura del gusto, come ci dice oggi Roberto Zottar. Ci sono piatti legati all'identità più profonda di una comunità e che rappresentano qualcosa di più di una tradizione. Un esempio ne è il pancotto o panade in Friuli, zuppa povera costituita fondamentalmente da pane raffermo cotto in acqua. Nelle famiglie più abbienti o per i convalescenti, al pane si poteva aggiungere brodo e anche un uovo. Dentro questa pietanza, però, non ci sono soltanto umili ingredienti. C'è la storia dei nostri nonni che ritenevano pagnotte e filoni un cibo sacro e mai li avrebbero sprecati. C'è la cultura contadina di quando il pane veniva impastato con il levan, il lievito madre, e infornato ogni 2 settimane e diventando duro era necessario aguzzare l'ingegno per renderlo di nuovo appetibile. Nulla veniva gettato, nemmeno i tozzi di pane vecchio, ingredienti base di questo piatto, simbolo stesso dell'arte del riciclo. Questa zuppa, considerata lontana parente della Puls tractogalata di Apicio, veniva offerta alle puerpere ritenendo che favorisse l'allattamento e in epoca in cui gli omogenizzati non esistevano era impiegata per lo svezzamento dei bambini con l'aggiunta di salvia, considerata un calmante per le colichette dei neonati. La panada o panadela, a Trieste in Istria per la vigilia di Natale, secondo Rosamani, si faceva con il pane fatto in casa nell'ultimo giorno delle tempora d'inverno, cioè tra la terza e la quarta domenica di Avvento, e che si conservava sano fino al Natale dell'anno venturo, perché gli si attribuivano diverse virtù. La panade friulana non è una ricetta codificata, è un piatto familiare dove ognuno ha le sue piccole varianti. La ricetta che vi racconto oggi è una versione ricca di un'eclettica e bravissima cuoca, Teresa, dal cognome e dalla pronuncia impronunciabile, che ha una trattoria stregna nelle valli del Natisone. In una pentola sciogliete 50 g di burro e fate dorare 400 g di pane raffermo a dadini. Aggiungete 1 litro di brodo caldo, salate e cuocete per 20 minuti finché il pane sarà disfatto. D'inverno, a metà cottura, aggiungete dei semi di finocchietto pestati, mentre d'estate mettete dei fiori di camomilla. Quando la zuppa di pane sarà cotta, densa e profumata, conditela con 1 etto di formaggio montaso stagionato grattugiato e abbondante pepe nero macinato fresco. Servite la panade aggiungendo 40 g di prosciutto crudo tagliato a dadini piccolissimi, tostati in padella e qualche seme di finocchio. Ha un gusto straordinario, complesso, intenso e avvolgente. Riciclate quel pane che sicuramente vi è avanzato e provatela, ve ne innamorerete. Buon appetito! Come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato poco attivo, con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 18,30 e 18,50 euro al quintale, IVA esclusa, il frumento tra 20,30 e 20,60, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 17,80 e 18,30 e la soia tra 45,10 e 45,40. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 2 euro 30 e la soia di 10,80 euro il quintale. Passando ai bovini da macello, si rileva una situazione stabile nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,10 e 2,40 euro al chilo, IVA esclusa, e quelle di seconda tra 1,40 e 2,10. Pure il mercato dei vitelli da ristallo conferma quotazioni stazionarie e l'ultimo andamento rileva i blu-belga maschi pagati tra 5,70 e 6,30 euro al chilo, IVA compresa, i pezzati rossi tra 4 e 4,50, i frisoni tra 1,30 e 1,60, i bruni tra 1,20 e 1,40. 40. Nel comparto suinicolo si rilevano spunti di ripresa per il valore degli attondoli di 30 kg franco partenza, che fissa i prezzi a 2,10 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,15 il chilo. Domanda confermata con quotazioni stabili nel settore lattiero caseario, e il prezzo del montaggio fresco è compreso tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Il latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia è stato quotato dalla commissione camerale di Pordenone Udine Franco Stalla a 36 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Il 2020 si è concluso e possiamo farne un bilancio meteoclimatico. Per le precipitazioni siamo stati nella norma, mentre la temperatura media è stata ancora una volta superiore al valore normale climatologico. Nel dettaglio si può dire che la temperatura è stata di un grado più alta della norma, sebbene non si siano toccati picchi di caldo eccezionali. Due mesi sono stati nella norma poco più freschi e sono stati giugno e ottobre, mentre tutti gli altri sono stati più caldi, con la maggiore anomalia a febbraio con 2,5 gradi oltre la norma. Le precipitazioni sono state molto elevate a dicembre e molto scarse a novembre. Anche giugno è stato molto piovoso. Le nevicate in montagna di queste ultime settimane hanno determinato la formazione di uno strato al suolo molto consistente e possiamo affermare che non era mai caduta tanta neve in montagna prima dell'Epifania come quest'anno. A Treviso l'altezza maggiore raggiunta dal manto nevoso è stata di 118 cm, rilevanti anche il valore a Sella Nevea che ha toccato la punta di 193 cm. Nell'area del rifugio Gilberti si è arrivati a 4,10 m. Spostandosi in Carnia, a Forni di Sopra sono stati misurati 152 cm, sullo Zoncolan 228, a Piancavallo infine 153 cm. Il tempo sull'Europa in questi giorni è determinato dalla presenza di due depressioni con aria fredda in quota, una sull'Europa centro-orientale ed una sulla penisola iberica. Quest'ultima fa fluire correnti in quota umide meridionale sull'Italia, mentre nei bassi strati affluisce aria fredda alla nord-est. Lunedì sulle zone occidentali della regione avremo cielo in prevalenza sereno, su quelle orientali e sulla costa da poco nuvoloso variabile. Soffierà bora forte sulla costa, moderata in pianura, in attenuazione nel pomeriggio. Nel tarvisiano sarà possibile nel vischio verso il confine. Le temperature rimarranno decisamente basse, specie in montagna dove l'aria sarà gelida. Martedì avremo sereno in montagna e in pianura. Sulla costa orientale cielo poco nuvoloso con bora moderata in attenuazione. Dal tardo pomeriggio sarà possibile un aumento della nuvolosità. Farà ancora molto freddo, specie in montagna. Mercoledì scenderà dal nord Europa una massa d'aria ancora più fredda. Sulla regione avremo nuvolosità variabile, con la possibilità di qualche debole nevicata fino a Vontovalle. Soffierà vento moderato da nord, con qualche raffica più forte di fenne in montagna. Giovedì e venerdì la depressione fredda si sposterà verso i Balcani, mentre nel fine settimana potrebbe ritornare ad interessare le Alpi. Fino a domenica avremo nuvolosità variabile, con alcune fasi di bora moderata sulla costa, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà piuttosto bassa. Le temperature minime rimarranno di qualche grado sotto zero in pianura, poco sopra lo zero sulla costa, attorno ai -10-15 in montagna. Le massime scenderanno gradualmente e domenica, in molte località, la temperatura potrebbe rimanere negativa anche di giorno. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Dio guardi di un buon zenar, parpodei empla il granar, ovvero Dio ci assicuri un buon gennaio per poter riempire il granaio. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitanicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.